avremo bisogno di più. E il viso di non restare con me. Così ancora. Con dentro potente la bandera più. E la tua grande è per me te. Le tue frate mi non ti corretta. Così ancora. Capitaine de l'occasion, est-il est le plus grand.